perciò non è affatto necessario cercare di raggiungere qualche stato speciale. Quando cercate di raggiungere qualcosa, la vostra mente comincia a vagare in qualche altro luogo. Quando cercate di non ottenere niente, allora avete il corpo e la mente qui, proprio qui. State solo sedute in silenzio, ascoltando il respiro. Non è niente di speciale.